Investire informati. Nessuna domanda sulla tiroide. Buongiorno e benvenuta ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Thread Needle Investment. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Al suo battesimo a cuore denari. Contento? Moltissimo. Non vedeva l'ora, non vedevo l'ora. Di parlare, di rispondere alle domande degli ascoltatori sull'universo mondo dei fondi di investimento. Allora, peraltro, stavamo pensando oggi, magari invece di fare il domandone, quello che possiamo fare, Nicoletta, è invitare i nostri ascoltatori, come sempre, ad aprire i loro faldoni dei prospetti informativi, come dire, iniziativa che non vogliamo mai prendere, perché metterci su quei documenti equivale naturalmente a farci perdere il sonno in automatico. Però così, l'idea è, se avete se pensate di aver fatto una scelta di investimento, stamattina aprite il prospetto del fondo, è invece tutt'altra cosa rispetto a quella che avevate pensato di sottoscrivere, magari raccontatecelo all'800 24 00 24. Proveremo a chiarirvi un po' le idee con il nostro ospite di questa mattina. Però, siccome Columbia Thread Needle Investment è una società britannica anglosassone, in realtà la prima domanda che voglio fare ad Alessandro Aspesi è se ci porta informazioni di prima mano su Brexit, perché qua noi siamo in attesa di capire se questi se ne vanno, non se ne vanno, e visto che quando hanno fatto la scelta del referendum a giugno hanno mandato in tilt la borsa per una settimana, non vorrei che zitti zitti ci stessero preparando qualche altra sorpresa. Ma devo dire che, se dovessi riassumere la situazione attuale nel Regno Unito, direi che ci sono poche idee e anche confuse, in quanto comunque ci sono sia delle pressioni a livello politico affinché la negoziazione di una potenziale uscita del Regno Unito venga fatta in maniera ordinata dalla parte politica, ci sono altresì delle pressioni, soprattutto a livello governativo, invece di portare l'Inghilterra a essere la grande Inghilterra, un po' sulla linea guida che abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli ultimi mesi con le elezioni americane. Quello che possiamo identificare sono principalmente tre scenari. Lo scenario ideale, la cui fattibilità è veramente bassa, è quella che il Regno Unito comunque rimanga nell'Unione Doganale Europea. Il maggior rischio in questo caso è come l'Inghilterra potrà giustificare con i propri elettori, naturalmente, un controllo politico, sull'immigrazione, esatto, e anche politico interno. E anche politico interno, quindi direi questa diamo una bassissima possibilità. Lo scenario più probabile è quello di un'Inghilterra che inizierà a contrattare con l'Unione Europea per i prossimi 2 anni. Ipotizziamo che venga schiacciato il bottone dell'articolo 50 entro fine marzo, di Lisbona, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Mettiamo che venisse schiacciato il bottone entro fine marzo, si parla quindi di un febbraio 2019, prima che l'Inghilterra possa, per esempio, andare a siglare quelli che vengono chiamati free trade agreement, cioè delle singole negoziazioni con tutti i paesi europei affinché si possano trovare dei benefici dal punto di vista dello scambio delle merci e dei servizi. Il terzo scenario, che invece è quello più drastico, quindi la hard Brexit, quella proprio più pesante da sopportare, è quella di una rottura subito della collaborazione con l'Unione Europea e un passaggio immediato a quelle che sono le regole del commercio internazionale, la WTO. Quindi l'Inghilterra verrà considerata come la Cina all'interno dei confini europei. Però diciamo che non è ancora chiaro come e quando questo bottone verrà schiacciato, e soprattutto ci sono tantissimi interessi economici che poi andranno a mitigare quelle che sono state questi voti di pancia che abbiamo poi vissuto nel giugno dell'anno scorso. Bene, insomma, allora avremo modo di chiacchierare di nuovo di questo argomento appunto prossimamente, quindi mi sono voluta togliere questa curiosità. So che lei appunto a Londra ci va molto spesso, quindi per capire anche un po' che aria e tira. Per adesso sono ancora a Schengen, quindi anche in aeroporto va abbastanza bene. Senta, allora Alessandro Aspesi l'abbiamo invitato questa mattina perché appunto abbiamo pensato di fare un po' di ABC su questo universo mondo dei fondi di investimento. Vedo già che qualche domanda sta arrivando da parte degli ascoltatori all'800 24 00 24. Adesso Roberto, chiedo a Marco appunto di farlo intervenire immediatamente, perché effettivamente la domanda che ci fa è calzante ed è in linea con le prime lettere dell'alfabeto, proprio, che volevo chiarire con Alessandro Aspesi, perché il tema dei fondi, dicevo prima, è molto articolato, ma partiamo proprio dalle aree più semplici. Intanto, dicevo prima, abbiamo da una parte gli azionari, gli obbligazionari, quelli che sono a metà sono i bilanciati. Andiamo subito a chiarire un po' queste tre categorie, che cosa ci raccontano Aspesi. Poi andremo a tutto il tema della gestione attiva, passiva e tutte le novità invece molto più complesse che sono arrivate di recente, che peraltro promettono protezione totale ai risparmiatori e invece i risparmiatori appunto hanno avuto molte amare sorprese recentemente perché hanno capito che sono investimenti a rischio esattamente come tutti gli altri. Poi ci andiamo. Assolutamente. Sì. Ma direi che la grossa macro distinzione a livello di investimenti finanziari presuppone che i fondi azionari siano fondi nei quali i gestori vanno a investire materialmente nelle aziende acquistando parte del capitale sociale di queste aziende e partecipando ovviamente ai risultati positivi o negativi che queste aziende andranno incontro durante l'anno. I fondi obbligazionari invece investono in una serie differente di obbligazioni che possono essere da titoli di Stato, possono essere titoli corporate, quindi titoli emessi da società, possono essere titoli del debito emergente, possono essere cartolarizzazioni, quindi dei pacchetti di debito che vengono poi sintetizzati concetto che abbiamo appreso nostro malgrado proprio subito dopo lo scoppio della crisi dei mutui subprime. Assolutamente. Accanto a questi poi, se volessimo identificare una categoria generica che cerca di mixare al meglio gli ingredienti che possono arrivare dagli investimenti azionari e obbligazionari, passiamo alla categoria dei fondi bilanciati. Categoria dei fondi bilanciati che a sua volta ha vari tipi di specializzazioni. Mi spiego meglio. Il fondo bilanciato tradizionale è un'allocazione delle risorse, quindi dell'ammontare che un investitore vuole effettuare tra investimenti azionari ed investimenti obbligazionari. A 50-50 oppure c'è uno sbilanciamento a favore di un settore rispetto ad un altro? Dipende dal profilo di rischio dell'investitore, quindi ci sono dei fondi bilanciati, chiamiamoli difensivi, che hanno un'esposizione massima ai mercati azionari magari del 10-15%, ci sono dei fondi che vengono definiti secondo la normativa di assogestione bilanciati, che sono quelli per i quali stai facendo tu riferimento, quindi 50% azionario, 50% obbligazionari, e poi ci sono i bilanciati aggressivi che sono invece l'esatto contrario. Quindi più sbilanciati verso l'azionario e con una componente più ridotta di obbligazionari. Perfetto. E questa è, diciamo, la storia che in Italia abbiamo conosciuto da metà degli anni Ottanta. Nel corso poi del tempo queste strategie bilanciate sono andate verso una sorta di sofisticazione, portandosi ad esempio nel campo dei fondi multi-asset. I fondi multi-asset hanno la caratteristica di utilizzare sì gli ingredienti classici dei fondi bilanciati, quindi azioni e obbligazioni, ma possono anche investire in altre classi di attivo, come per esempio il mercato immobiliare, come per esempio le commodities, come per esempio dei titoli strutturati. Quindi vanno... Perché è stato necessario per l'industria evolversi verso questa forma di fondo? È stato necessario perché il mondo, globalizzandosi, ha fatto sì che ormai tutte le attività e tutte le notizie di qualsiasi parte del mondo fossero completamente collegate in tempo reale. Di conseguenza la classica diversificazione che una volta si faceva dicendo ok, io investo in Europa perché è un tipo di mercato, ma tanto non sono molto dipendente da quello che succede in America stasera alle ore 22 la chiusura di Wall Street, ormai questo tipo di ragionamento è completamente saltato. Quindi occorre inserire all'interno dei portafogli dei clienti delle classi di attivo che permettano perlomeno o di diminuire la volatilità del mercato o di ridurre quella che è, viene chiamata tecnicamente correlazione, cioè quanto un'attività, un movimento nella borsa di Tokyo venga immediatamente propagata. Quindi insomma proprio delle stanze di compensazione dei rischi. Assolutamente. Cuore e denari. Non ridete per la scelta della nostra colonna sonora, perché poi parleremo anche di robot, di quest'altra grande novità con la quale dovremo prendere confidenza per i prossimi anni. Robo advisor, quindi consulenti finanziari non tanto più umani, ma ci saranno quasi solo le intelligenze artificiali magari a gestire i fondi di investimento. Ne parleremo tra poco, intanto con Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia, responsabile delle attività italiane appunto di Columbia Threadneedle Investment. Provo a tradurre per i nostri ascoltatori sempre le vostre cariche. Stiamo esplorando il mondo dei fondi di investimento. Dopo aver ricordato un po' le categorie tradizionali e il loro funzionamento, siamo andati subito alla grande novità degli ultimi anni, che è stata rappresentata dai cosiddetti fondi multi-asset. Abbiamo anche delle domande degli ascoltatori all'800 24 00 24. Abbiamo esaurito Aspesi la definizione. Adesso quello che vorrei fare è magari dare le tre regole di condotta ai nostri amici che ci seguono da casa. Patto che abbia abbiano, con il proprio consulente finanziario, condiviso la scelta di sottoscrivere un fondo multi-asset, ma magari non hanno ancora esaminato bene il fondo dal punto di vista del prospetto informativo, non capiscono bene la politica di investimento. Quali sono i 2-3 punti fondamentali che devono conoscere? Ma io consiglierei agli investitori di fare una bella chiacchierata con il proprio consulente finanziario per andare a identificare quelli che sono i fattori più importanti e che più possono fare arrivare l'insonnia piuttosto che il mal di stomaco, tornando all'argomento precedente. Cioè, quanto sono disposto a perdere? Quanto mi fa male vedere il mio portafoglio che in un determinato contesto può avere una performance negativa? E qual è il mio orizzonte temporale? Perché è ovvio che se fossi una persona vicino alla pensione avrò necessità di avere delle strategie che non vanno a erodere il mio capitale con un rischio molto limitato. Se sono un ragazzo di 25 anni uscito dall'università con papà che mi fa un regalo come borsa di studio, andrei a scegliere degli orizzonti temporali decisamente più lunghi. Dico questo perché sotto il nome multi-asset possono rientrare tantissime tipologie differenti di investimento, con ovviamente dei rischi correlati a seconda di dove si vada ad investire. Mi spiego meglio. All'interno delle strategie multi-asset ci possono essere quelle che vengono definite strategie a ritorno assoluto. Questi tipi di strategie devono per definizione offrire un rendimento costante su un orizzonte temporale annuo, con la capacità di limitare al massimo le perdite. Quindi se io comprassi un fondo... Quindi in quel caso il lavoro del gestore è proprio quello di contenere il rischio, controllare il rischio. Quindi se io comprassi un fondo multi-asset a ritorno assoluto, non potrò lamentarmi col mio consulente qualora questo prodotto facesse, mettiamo, 3% all'anno di performance. Perché quello è il suo obiettivo. Se facesse una performance del 15%, molto probabilmente vuol dire che il gestore... Io dico che se porta a casa il 3% annuo con gli scenari attuali... Io me lo stavo segnando, esatto. Ritorno assoluto, guarda, che mi sembra. Deve portare una candela in parrocchia più che altro, perché voglio dire, con un paritetico titolo di Stato a scadenza annuale sapete bene quello che rende. Detto ciò, a fronte di un investitore incontentabile che vuole molto di più, invece, ecco che non è quella la strategia di investimento giusta. Direi proprio di no. Mi sposterei su una strategia, adesso io la traduco in italiano, a ritorno totale. Ecco. Un nome un po' esotico. Ma total return, quello di prima. Però grazie invece per averle dato direttamente in italiano. No, ma prende pure appunti dell'incredibile stamattina. Bene. Onorato. No, dicevo, le gestioni a ritorno totale hanno un'altra caratteristica, cioè devono cercare una crescita del capitale nel medio-lungo periodo, quindi non si parla più di un orizzonte temporale di 12 mesi, ma si parla di un orizzonte temporale di 3-5 anni. Devono ottenere una crescita del capitale che abbia come caratteristica principale un ritorno simile, per esempio, ai mercati azionari, ma una volatilità più bassa. Quindi, se per ipotesi i mercati azionari dovessero fare il 10%, un fondo total return annualizzato a 3 anni potrebbe fare intorno al 6-7%, con una volatilità però che potrebbe essere... Siamo sempre all'ordine del condizionale, assolutamente. Stiamo facendo degli esempi. Purtroppo stiamo solamente parlando di ipotesi, perché nessuno ovviamente ha la sfera magica per sapere che ci servono cosa per succede capire. Oggi. E quindi in questo caso è più adatto a quel cliente che magari ha un orizzonte temporale di 5 anni rispetto al cliente di prima che invece voleva sostanzialmente una preservazione del proprio capitale. Per chi è ancora più incontentabile, invece, ci sono dei fondi, diciamo, multi-asset, che invece hanno un obiettivo proprio di crescita sostenuta del capitale, come contropartita, hanno una volatilità più alta. Quindi, se la borsa scendesse in un mese del 10%, è molto probabile che anche questi tipi di gestione registrino dei segni negativi. Quindi, il mio discorso è quello che mai fidarsi del nome, prima cosa, e fare una bella chiacchierata col proprio consulente spiegando quelle che sono le note più negative e che danno più fastidio. In base a quello si crea poi che sono invece un po' proprio quegli aspetti della conversazione con la propria consulenza che non vengono mai tenuti in considerazione, o quantomeno magari molti consulenti non spingono verso questo tipo di considerazione. Qual è il rischio massimo che sei disposto ad assumerti? Attenzione che questa soluzione di investimento magari in un periodo particolarmente negativo può fare anche peggio del mercato, e però sappi che quando invece il momento è positivo può darti anche maggiori soddisfazioni. Sei disposto a tollerare tutte queste oscillazioni di mercato? Invece le persone, oppure magari il consulente è molto chiaro Il sottoscrittore dice sì, sono assolutamente capace di tollerare anche momenti di perdita molto vistosi, e invece quando si verificano gli viene l'angoscia, gli parte l'adrenalina, Nicoletta non si dorme e quindi si contesta l'operato della consulenza, per cui attenzione anche da parte nostra a fare delle scelte responsabili, sì, ecco, e consapevoli. La cosa importante è mai guardare gli investimenti con lo specchietto retrovisore. Bravo. Mai. Non c'è mai garanzia per le prestazioni future di quello che è successo appunto rispetto al passato. Ritorniamo invece su delle categorie un po' più tradizionali con la domanda di Roberto da Chieti, che poverino abbiamo fatto aspettare un sacco. Roberto, benvenuto. Sì, grazie per la richiamata. Ci dica tutto. Io volevo chiedere la differenza sostanziale tra un ETF e un fondo comune. Inoltre, se si possono sottoscrivere quote di fondi comuni direttamente in borsa bypassando la banca o il consulente. Grazie. Roberto, grazie molte. Allora, qua andiamo ad un altro profondo cambiamento che è intervenuto nell'industria del risparmio gestito qualche anno fa, quando sono arrivati gli ETF. Effettivamente il mondo della gestione attiva ha tremato, e non poco, perché appunto gli ETF, gli Exchange Traded Fund, sono fondi a gestione passiva, non c'è nessuno che li gestisce, Aspesi, vanno a replicare gli indici di mercato, possono essere azionari ed obbligazionari, costano molto meno e molti, soprattutto i consulenti indipendenti, li suggeriscono al posto dei fondi attivi. Vabbè, adesso sembra che ho voluto dire tutto io, però insomma lei saprà darci qualche dettaglio. Allora, in più. Partiamo prima sfatando il mito che gli ETF siano differenti dai fondi comuni. Gli ETF sono fondi comuni. La loro caratteristica è quella di replicare nella maniera più vicina possibile quello che è l'andamento di un indice finanziario. Può essere un indice di borsa, può essere un indice obbligazionario, può essere un indice legato alle commodities. Come queste gestioni operano? Operano tramite, spesso e volentieri, dei modelli quantitativi, quindi dei robot, che vanno a replicare in tempo reale quello che è la variazione che un determinato indice ha durante la giornata. Okay? La loro caratteristica principale è quella di cercare di mantenere al massimo i costi contenuti. Esatto. Perché ovviamente il loro principale vantaggio è quello. Se io devo fare esattamente come un mercato e ho un costo dell'1,5% all'anno, automaticamente farò sempre come mercato meno 1,5% all'anno. Quindi la caratteristica degli ETF è quella di dire: ti dico con certezza che farò quanto il mercato e cerco di offrirti questa opportunità al prezzo più basso possibile. I vantaggi e gli svantaggi. I vantaggi sono che so esattamente cosa accadrà. Gli svantaggi sono che in determinati momenti una gestione attiva potrebbe cercare di mitigare quelli che sono i rischi del mercato. Mi spiego meglio. Nel corso del 2015... Facciamo l'esempio di un fondo comune di investimento che replica la borsa italiana. Il caso più semplice è il paritetico ETF, che replica identicamente l'andamento dell'indice di Piazza Affari. La borsa italiana ha un'altissima concentrazione in titoli finanziari, bancari e di titoli legati alle utilities e alle commodities. Okay? Quindi ci possono essere periodi, e mi riferisco per esempio al 2015, banche in crisi, necessità di raccogliere capitali, grossi scrolloni in borsa, e dall'altra parte c'era tutta la tematica relativa allo shale gas negli Stati Uniti, quindi anche i profitti delle aziende petrolifere erano sotto pressione. E quindi, come al solito, Milano, peggior piazza di tutto il resto del mondo, come tante volte le medaglia capita. Medaglia di legno, ecco. del mercato... La medaglia di legno, bella! del mercato europeo. Un fondo attivo cosa avrebbe fatto? Avrebbe sicuramente cercato di togliersi da quei titoli sotto pressione andando magari su titoli più difensivi, magari titoli legati alla grande distribuzione, per esempio, al settore alimentare, titoli che solitamente vengono chiamati anticiclici. Quindi in questo caso una gestione attiva avrebbe preservato di più il capitale rispetto a una gestione passiva che avrebbe preso in pieno l'andamento del mercato finanziario negativo. Ci possono essere anche situazioni contrarie. La gestione attiva presuppone... che non è tanto brava. Esatto, presuppone delle il gestore scelte. Può anche essere uno che non lavora bene, naturalmente le cantonate le prende anche lui. Oppure cerca di identificare dei temi che magari non avverranno domani, ma avverranno in 3 mesi. E di conseguenza può verificarsi il fatto che un ETF fa molto meglio di un fondo attivo, certo, perché coglie immediatamente quella che è l'opportunità del mercato. Questa è la grande differenza. Detto ciò, siccome qualche volta ci arrivano delle domande specifiche sul mondo degli ETF da parte di che pure è diventato veramente un mare magnum di opportunità complicatissime, perché adesso vanno anche ad investire sulle valute, su situazioni complicatissime, vanno al, con strategie al contrario incredibili, per cui anche lì magari è necessario fare una puntata apposita e la faremo. Cuore e denari. Lo possiamo arruolare come conduttore del programma, Nicoletta, Alessandro Aspesi, perché si è accorto assolutamente sì che non abbiamo risposto all'ascoltatore che chiedeva: ma io l'ETF posso comprarlo direttamente in borsa senza andare allo sportello bancario? Guardi, tanto anche se ci va, la banca non glielo vende neanche morta, perché la banca distribuisce i fondi che dice lei, l'ETF neanche ci pensa, detta proprio brutalmente Aspesi. No, direi a Roberto che ha sia la possibilità di acquistare gli ETF direttamente in borsa, sia la possibilità anche di acquistare una gamma di fondi comuni che partecipano al mercato italiano. Non sono ancora un numero altissimo in termini di opportunità di investimento, tuttavia c'è la possibilità anche di scegliere in piena autonomia il proprio fondo comprandolo in borsa. Ricordo comunque una statistica americana che purtroppo è come una legge scritta nella pietra: il fai da te nel 73% dei casi porta risultati negativi. So. Quindi e stiamo attenti qua quando cerchiamo anche per la salute, è la stessa cosa. Esatto. Vero. Detto questo, però poi quando cominciamo a suggerire certe modalità di operare, tu fai lo sponsor dell'industria farmaceutica, di quella del risparmio gestito, non sono mai contenti. E allora fate da voi, cosa volete che vi diciamo? Detto questo, velocemente, Enrico Marro, Radio 24. Sì, fra un po' ti arruoliamo anche qua, redazione online del Sole 24 Ore. Dico buongiorno. Buongiorno Deborah. Allora, noi stiamo parlando stamattina di come sta cambiando il mondo dei fondi di investimento, che piano piano cominceranno ad essere gestiti sempre di più da gestori artificiali, perché sappiamo che anche nell'industria del risparmio gestito si sente sempre più parlare di fintech, robot dietro la movimentazione e la scelta di titoli da inserire nei fondi. Ho molto banalizzato, in realtà questa è una vera e propria rivoluzione più complessa che avremo modo di esplorare. Detto questo, il tema dell'avvento dei robot in ogni ambito produttivo è in primo piano anche negli Stati Uniti. Enrico, una notiziola fresca e divertente che hai scoperto qual è? Guarda, riguarda sempre uno dei nostri evergreen, perché è un grande fabbricatore di notizie, Donald Trump, che infatti tra parentesi, tutti i giornali americani stanno moltiplicando gli abbonamenti digitali grazie a Trump. Comunque, diciamo, la notizia di oggi è che in realtà non è nuovissima, è che Trump minaccia naturalmente tutti i fabbricatori, in particolare di automobili, che hanno gli stabilimenti all'estero, di erigere queste barriere protezionistiche cercando di rimpatriare negli Stati Uniti le produzioni. L'intento, secondo i suoi tweet, è quello di restituire la prosperità agli operai, ai blue collar, come dicono negli Stati Uniti, che più di altri hanno sofferto la globalizzazione e che l'hanno votato anche un po' per questo. Ecco. Però un'analisi di Aberdeen, che è un altro gestore, mette un bel punto interrogativo, perché dice: ok, rimpatriamo le fabbriche negli Stati Uniti, ma siamo sicuri che i produttori di auto tornerebbero ad assumere a costi naturalmente molto superiori di quelli degli operai messicani, gli operai americani? Probabilmente no, perché in un settore così competitivo come quello automobilistico, il rimpatrio delle fabbriche piuttosto forzerebbe le aziende a ripensare le loro strategie, prendendo la strada ancora più diretta di quella che stiamo percorrendo, dell'automazione, quindi dei robot come mezzo per evitare i costi più alti dell'impiego di manodopera statunitense. Certo. E tra l'altro non stiamo solo parlando di robot alla catena di montaggio, ma addirittura di diciamo software che cercheranno di ridurre i costi dell'intero business, quindi contabilità, distribuzione. Anche perché gli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico sono all'avanguardia. Un tema apertissimo, molto affascinante anche nelle sue implicazioni non propriamente positive. Enrico, grazie, probabilmente ci risentiremo settimana prossima. Buona giornata. Buona giornata. Certo, buona giornata. A presto, giornata, grazie Enrico. Allora, il fintech nell'industria del risparmio gestito, voi ci state pensando a Aspesi, insomma è una rivoluzione che potrà essere interessante anche per il piccolo risparmiatore, proprio sempre in funzione di quel grande obiettivo che è l'abbattimento dei costi anche delle soluzioni di investimento. È sicuramente un tema che soprattutto negli Stati Uniti ha preso piede. Noi popolo latino siamo sempre più scettici, soprattutto quando un qualcosa ci viene preconfezionato senza avere un contatto umano, no? Un po' come dicevamo prima con Nicoletta, se hai un problema di solito vai da un dottore, non vai a cercare su Google la risoluzione per il tuo problema. Però quello che stiamo vedendo è che soprattutto i millennials, quindi comunque ragazzi o giovani abituati molto di più del classico investitore tipo di 50 anni con due figli e con diciamo serenità dal punto di vista finanziario, stanno sempre di più guardando questo tipo di opportunità che comunque permettono di guidare un investimento con un determinato profilo di rischio, con una determinata caratteristica degli investimenti, e quindi permettono sempre di dare una guida piuttosto che lasciare una persona completamente in balia di mercati che noi anche a detta di lavoro abbiamo spesso e volentieri difficoltà ad analizzare. Chissà che app si inventeranno questi ragazzi proprio per la gestione del risparmio. Siamo qua pronti, perché credo che poi queste novità non arriveranno tanto in là nel assolutamente tempo. No. Prima sentivo anche il vostro collega. Siamo stati a Boston 2 settimane fa in un hotel dove non c'era nessun tipo di concierge. Tu arrivavi automaticamente via wireless, ti arrivava un codice con un'applicazione QR, tu andavi alla porta della camera, avvicinavi l'iPad e la camera si apriva. È già realtà, insomma, quindi tutto è già realtà, è già realtà. A me non piacerebbe. Vedi, però che ci stiamo traghettando bene, inevitabilmente verso un quel po' mondo. Poco personale. Mettiamola così. Aspesi, in 2 minuti ce la facciamo a raccontare i fondi a cedola? No? Qua è un bel problema. Come c'era un messaggio di un ascoltatore che chiedeva proprio poco fa, adesso non lo trovo più, ho esigenze di flussi cedolari e quindi invece del BTP, che ormai è un po' traditore, non mi dà più quello che mi dava in passato, sto passando ai fondi a cedola. Però io trovo solo i fondi a cedola fissa che distribuiscono anche il capitale. Questo è un vizietto che molte società appunto hanno, quello di dire ti do il fondo a cedola, però per riconoscere la cedola al sottoscrittore vanno ad intaccare il capitale. Ci dia un po' 2 istruzioni per l'uso? È una domanda molto pertinente che l'ascoltatore Fabrizio ci ha fatto. Bisogna stare molto attenti a leggere il prospetto informativo. Nel prospetto informativo è obbligatorio inserire delle clausole o delle frasi che chiariscono quello che è la politica di elargizione delle cedole del fondo di investimento. Quindi se il prospetto prevede che in casi speciali dovuti alle condizioni di mercato la cedola possa anche considerare un rimborso del capitale, aprite gli occhi e state molto attenti, perché al di là del fatto che è vero che la cedola comunque serve, è un peccato pagare le tasse 2 volte su questa cedola. Vorrei ben vedere. E a proposito di tasse, c'era un ascoltatore che chiedeva informazioni sulla tassazione degli ETF, la fiscalità di questi strumenti di investimento. Magari Luciano, ci facciamo un'altra puntata, perché adesso devo chiudere, altrimenti come al solito Carmelo ci taglia la tagliola proprio arriva della sigla finale del programma. Aspesi, un bel 9 se lo porta a casa oggi. Grazie, ci è piaciuto. Io vero? Direi anche 9 più. Anche 9 più. Torneremo su questi. Addirittura l'applauso. Anche guardi che non li rilasciano mai. Solo per il compleanno. Esatto, ci ritorneremo su questi argomenti perché sono delicatissimi per gli ascoltatori. Intanto, grazie, noi torniamo domani. Che dici? Volentieri. Dai, finiamo la settimana anche questa volta. Buona giornata a tutti.